Attenzione Luca. 10. Hola, hola, hola. Canale 10, c'è nessuno su questo canale? Deghe, deghe, canale deghe. 10, 10, 10. Attenzione Marco, Marco. Hola, hola, Coca-Cola. Attenzione, canale 10. Attenzione, attenzione, canale 10.